Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Coronavirus, anche oggi facciamo il punto della situazione. In linea con noi il dottor Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Dottor Rezza, in un'intervista lei ha detto che in Italia il peggio è passato. Me lo conferma? È davvero così? Guardi, credo che il titolista abbia un po' equivocato il senso dell'intervista. Noi abbiamo in questo momento una diminuzione dei viaggiatori che provengono dalle zone colpite dalla Cina e dalla Cina in generale, e questo chiaramente tende a rassicurare la popolazione, perché il rischio di importazione di casi di infezione da nuovo coronavirus tende per forza di cose probabilisticamente a diminuire. Abbiamo superato una prima fase in cui, trovandosi nel nostro paese numerose persone provenienti dalle zone colpite, chiaramente avevamo un rischio più alto di trovarci di fronte a casi di malattia. Però non è che abbiamo superato il rischio di epidemia, nel senso che nelle zone colpite dalla Cina il focolaio è ancora molto attivo, anzi il numero di casi è in crescita. Quindi se in questo momento noi possiamo stare relativamente tranquilli, perché non possiamo escludere nuovi casi, ma certamente la probabilità rispetto al recente passato possiamo considerarla diminuita, rispetto al futuro rimane un punto interrogativo importante, anche perché non tutti i paesi europei hanno preso i provvedimenti che l'Italia ha preso, e anche perché finché non si vince la battaglia vera che si sta combattendo in Cina per circoscrivere i focolai epidemici, non potremo mai stare tranquilli. Fonti dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona riferiscono che è negativo il primo test della donna ricoverata a Verona per accertamenti dopo aver accusato i sintomi febbrili. Come ricordiamo, era venuta in contatto con la coppia di turisti cinesi che hanno soggiornato nella città scaligera, e questo è avvenuto prima che si manifestassero i sintomi che li hanno poi portati al ricovero allo Spallanzani. Naturalmente per la conferma definitiva si attende il test effettuato all'Istituto Spallanzani e quello all'ospedale di Padova. In linea con noi il viceministro Sileri, con cui vogliamo commentare questa ultima notizia. Viceministro Sileri, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Che cosa ci dice, che cosa ci racconta questo dato? Ho poco da aggiungere, a dire il vero, rispetto a ciò che ha detto il professore Rezza proprio adesso. Il livello di attenzione ovviamente rimane alto, i casi confermati in Italia sono dei due turisti cinesi attualmente ricoverati allo Spallanzani, e quindi ben venga il fatto che i test su altri sono negativi, il che conferma che il contenimento di solamente questi due turisti cinesi al momento sono solo loro, ecco, quindi questa è un'ottima notizia. Sono iniziati i controlli negli aeroporti fin da ieri, per coloro che viaggiano con voli indiretti, quindi col termoscanner, e quindi solo su Fiumicino nella giornata di oggi saranno circa 40.000 questi controlli, quindi un numero cospicuo, e questo dovrebbe ridurre ulteriormente le chance che altri possano non essere individuati al loro arrivo in Italia. Grazie al Vice Ministro della Salute Sileri, io passo la linea naturalmente a Gianluca Nicoletti e a Melog, mentre vi aspetto per una nuova diretta Facebook. Buona giornata da Nicoletta.